darsi un dito per raccogliere l'ultima briciola. Sentire il vento che cambia per cambiare pagina. Stammi vicino, non fermarti a pensare. Siamo cenere.